con Cristina Valenti, direttrice artistica della seconda edizione di Scenario Festival a Bologna, Manifattura delle Arti, dall'1 al 6 luglio 2019. Cristina, ben trovata. Grazie, grazie a te Federico. Raccontiamo cos'è lo Scenario Festival. Sì, Scenario Festival sarà la seconda edizione del festival organizzato dall'Associazione Scenario. C'è stata una prima edizione in forma sicuramente minore perché legata all'edizione del premio dedicata all'infanzia, lo Scenario Infanzia che abbiamo realizzato l'anno scorso nel 2018 a Cattolica, ma possiamo sicuramente battezzare Scenario Festival 2019 a Bologna nell'area della Manifattura delle Arti come la prima edizione della storia del festival. E di che cosa si tratta? L'idea da parte di Scenario è stata quella di organizzare la finale del premio Scenario per l'appunto all'interno di un contesto nostro. Fino al 2017, premi biennali, per questo parte del 2017, la finale del premio è stata ospitata all'interno del Festival di Sant'Arcangelo, un'ospitalità importante per noi che è andata avanti dal 2001 al 2017 e che ha permesso al nostro progetto di crescere al punto da farci vedere questa idea, forse un po' decennata, non lo so, spero che i fatti si ispirano, di costruire un festival nostro all'interno del quale organizzare la finale dell'edizione in corso del premio. E di questo si tratterà, quindi sarà la finale del premio Scenario 2019 con 12 progetti in concorso che presenteranno i loro lavori, quindi finalisti presenteranno i loro lavori accanto agli spettacoli di quelli che sono stati protagonisti delle edizioni passate Scenario. Quindi gli artisti che il Scenario ha contribuito a far emergere e devo dire anche a lanciare sulla scena del nuovo, sono compagnie importanti come lo Bazzaglia Teatro, Bazzaglia Teatri, il Sotterraneo, Anna Gore e Madanti che sarà presente con il suo film, e ancora i fratelli Galadia, Davide Mia, Lifferrati che sarà presente con un laboratorio, Chiara Bressani che porterà un suo talk, una sorta di bianco ai giovani finalisti prima della premiazione, della cerimonia della premiazione. Questo sostanzialmente, un festival all'insegna di Scenario che in qualche modo rappresenti, dia conto, dia visibilità al patrimonio di esperienze, di artisti, di nuovi linguaggi che Scenario ha contribuito a far emergere, mi verrebbe da dire, nei suoi più di 30 anni di storia. In realtà ci siamo limitati a selezionare all'interno del terzo millennio di Scenario, cioè dal 2001 a oggi. Nel complesso quanti saranno i lavori ospitati e presentati? Sì, ci saranno, allora, ci saranno i finalisti del premio Scenario 2019, innanzitutto che come dicevo sono 12 corti teatrali, 12 studi scenici di 20 minuti, perché come sappiamo il premio lavora su progetti in fieri, quindi non sono ancora spettacoli compiuti, ma sono studi scenici che diventeranno spettacoli e infatti il premio è per noi, che è anche un conferimento in denaro, un sostegno alla produzione del lavoro finito, quindi 12 finalisti in gara. Poi ci saranno 6 spettacoli, da Divenia, Babilonia Teatri, Anagor, Fratelli della Via, Sotterraneo, il film di Emma Dante, 2 laboratori, il laboratorio di Ferranchiati che sarà ospitato al Cancero, che è uno degli spazi che si affacciano sull'area della manifattura degli arti con cui collaboriamo, e il nostro laboratorio sull'osservazione dello spettacolo dal vivo, quindi di lettura dello spettacolo dal vivo condotto da Fabio Hacca. Ecco, ci tengo a dire a proposito dell'area delle manifatture delle arti che faremo la giornata che abbiamo chiamato Aspettando il Festival il 1 luglio presso il Cassero, dove sarà presentato il lavoro di Davide Nia, Canti e Conti. Poi dal 2 luglio saremo al Dance Lab, quindi ai laboratori teatrali, gli spazi teatrali del Dipartimento delle Arti, c'è una collaborazione importante con il Dipartimento delle Arti e con l'Università di Bologna. Questo spazio, il Dance Lab, si sta aprendo alla città, almeno da un anno a questa parte, con la responsabilità scientifica di Roberta Paltrinieri, e si sta creando quindi questa sinergia importante fra un progetto come Scenario, che comunque ha un pezzo anche della sua storia dentro al Dipartimento delle Arti, perché il centro della soffitta che afferisce al Dipartimento delle Arti è socio di Scenario, e una sinergia importante fra Dams Lab e Scenario, e in particolare Scenario Festival. Ci auguriamo di continuare a lavorare lì negli anni futuri, e che quindi il Festival di Scenario abbia lunga vita, ovviamente. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, certo, il sito di Scenario è www.associazionescenario.it. Siamo su Facebook come Associazione Scenario, siamo su Instagram sempre come Associazione Scenario, e siamo su Twitter come Premio Scenario. Questi i nostri riferimenti. Il sito, tra l'altro, l'abbiamo appena rinnovato proprio in vista del festival, quindi così ti invito è a navigare sul nostro sito, sul nostro nuovo sito completamente rinnovato, dove ovviamente il programma del festival è completo e aggiornato. www.associazionescenario.it. Allora ricordiamo la seconda edizione di Scenario Festival a Bologna, Manifattura delle Arti, dall'1 al 6 luglio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Cristina Valenti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, a risentirci, e vi attendo tutto il festival.